Ad alta voce. Omero Antonutti legge Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Ho detto troppo presto, in principio, che ho conosciuto mio padre. Non l'ho conosciuto. Avevo 4 anni e mezzo quando egli morì. Andato con un trabaccolo in Corsica, per certi negozi che vi faceva, non tornò più, ucciso da una perniciosa, in 3 giorni a 38 anni. Lasciò tuttavia nell'agiatezza la moglie e i 2 figli, Mattia, che sarei io e fui, e Roberto, maggiore di me di 2 anni. Qualche vecchio del paese si compiace ancora di dare a credere che la ricchezza di mio padre, la quale pure non gli dovrebbe più dar ombra, passata com'è da un pezzo in altre mani, avesse origini, diciamo così, misteriose. Vogliono che se la fosse procacciata giocando a carte a Marsiglia col capitano d'un vapore mercantile inglese, il quale, dopo aver perduto tutto il denaro che aveva seco, e non doveva essere poco, si era anche giocato un grosso carico di zolfo imbarcato nella lontana Sicilia per conto di un negoziante di Liverpool. Sanno anche questo. E il nome? D'un negoziante di Liverpool che aveva noleggiato il vapore. Quindi, per disperazione, salpando, s'era annegato in alto mare. Così il vapore era approdato a Liverpool, alleggerito anche del peso del capitano, fortuna che aveva per zavorra la malignità dei miei compaesani. Possedevamo terre e case. Sagace e avventuroso, mio padre non ebbe mai per i suoi commerci stabile sede. Sempre in giro, con quel suo trabaccolo, dove trovava meglio e più opportunamente comprava, e subito rivendeva mercanzia ad ogni genere. E perché non fosse tentato a imprese troppo grandi e rischiose, investiva man mano i guadagni in terre e case, qui, nel proprio paesello, dove presto, forse, contava di riposarsi negli agi faticosamente acquistati, contento e in pace tra la moglie e i figliuoli. Così acquistò prima la terra delle 2 riviere, ricca di olivi e di gelsi, poi il podere della Stia, anch'esso riccamente beneficato, e con una bella sorgiva d'acqua che fu presa quindi per il molino. Poi tutta la poggiata dello Sperone, che era il miglior vigneto della nostra contrada, e infine San Rocchino, ove edificò una villa deliziosa. In paese, oltre alla casa in cui abitavamo, acquistò altre 2 case e tutto quell'isolato, ora ridotto e acconciato ad arsenale. La sua morte, quasi improvvisa, fu la nostra rovina. Mia madre, inetta al governo dell'eredità, dovette affidarlo a uno che, per aver ricevuto tanti benefici da mio padre fino a cangiar di stato, stimò dovesse sentir l'obbligo di almeno un po' di gratitudine, la quale, oltre lo zelo e l'onestà, non gli sarebbe costata sacrifici d'alcuna sorta, poiché era lautamente remunerato. Santa donna, mia madre, d'indole schiva e placidissima, aveva così scarsa esperienza della vita e degli uomini. A sentirla parlare pareva una bambina, parlava con accento nasale e rideva anche col naso, giacché ogni volta, come si vergognasse di ridere, stringeva le labbra. Gracilissima di complessione, fu, dopo la morte di mio padre, sempre malferma in salute, ma non si lagnò mai dei suoi mali, né credo se ne infastidisse neppure con se stessa, accettandoli, rassegnata, come una conseguenza naturale della sua sciagura. Forse si aspettava di morire anch'essa dal cordoglio e doveva dunque ringraziare il Dio che la teneva in vita, pur così tapina e tribolata, per il bene dei figliuoli. Come una cieca s'era abbandonata alla guida del marito, rimastane senza, si sentì sperduta nel mondo e non uscì più di casa, tranne le domeniche, di mattina per tempo per andare a messa nella prossima chiesa, accompagnata da 2 vecchie serve che la trattava come parenti. Nella stessa casa, anzi, si restrinse a vivere in 3 camere soltanto, abbandonandole molte altre alle scarse cure delle serve e alle nostre diavolerie. Spirava in quella stanza, da tutti i mobili d'antica foggia, dalle tende scolorite, quel tanfo speciale delle cose antiche, quasi il respiro d'un altro tempo. E ricordo che più di una volta io mi guardai attorno con una strana costernazione che mi veniva dalla immobilità silenziosa di quei vecchi oggetti da tanti anni lì, senza uso, senza vita. Fra coloro che più spesso venivano a visitare la mamma era una sorella di mio padre, zitellona bisbetica, con un paio d'occhi da furetto, bruna e fiera. Si chiamava Scolastica, ma si tratteneva ogni volta pochissimo, perché tutto un tratto, discorrendo, si infuriava e scappava via senza salutare nessuno. Io, da ragazzo, ne avevo una gran paura. La guardavo con tanto d'occhi, specialmente quando la vedevo scattare in piedi su tutte le furie e le sentivo gridare, rivolta a mia madre e pestando rabbiosamente un piede sul pavimento, «Senti il vuoto? La talpa, la talpa!» Alludeva al Malagna, all'amministratore che ci scavava soppiatto la fossa sotto i piedi. Zia Scolastica, l'ho saputo di poi, voleva a tutti i costi che mia madre riprendesse marito. Di solito le cognate non hanno di queste idee, né danno di questi consigli, ma ella aveva un sentimento aspro e dispettoso della giustizia, e più per questo, certo, che per nostro amore, non sapeva tollerare che quell'uomo ci rubasse così, a man salva. Ora, data l'assoluta inettitudine e la cecità di mia madre, non ci vedeva altro rimedio che un secondo marito. E lo designava anche in persona di un pover'uomo che si chiamava Gerolamo Pomino. Costui era vedovo, con un figliolo, che vive tuttora e si chiama Gerolamo, come il padre, amicissimo mio, anzi più che amico, come dirò appresso. Fin da ragazzo veniva col padre in casa nostra ed era la disperazione mia e di mio fratello Berto. Il padre, da giovane, aveva aspirato lungamente alla mano di zia Scolastica, che non aveva voluto saperne, come non aveva voluto saperne del resto di alcun altro. E non già perché non si fosse sentita disposta ad amare, ma perché il più lontano sospetto che l'uomo da lei amato avesse potuto, anche col sol pensiero, tradirla, le avrebbe fatto commettere, diceva, un delitto. Tutti finti per lei gli uomini, birbanti e traditori. Anche Pomino? No. Ecco, Pomino no. Ma se n'era accorta troppo tardi. Di tutti gli uomini che avevano chiesto la sua mano e che poi si erano ammogliati, ella era riuscita a scoprire qualche tradimento e ne aveva ferocemente goduto. Solo di Pomino, niente. Anzi, il pover'uomo era stato un martire della moglie. E perché dunque ora non lo sposava lei? Oh, bella, perché era vedovo. Era appartenuto a un'altra donna, alla quale forse, qualche volta, avrebbe potuto pensare. E poi, perché, via, si vedeva da 100 miglia lontano, nonostante la timidezza, era innamorato. Era innamorato, si intende di chi? Quel povero signor Pomino. Figurarsi se mia madre avrebbe mai acconsentito. Le sarebbe parso un vero e proprio sacrilegio. Ma non credeva forse neppure, poverina, che zia Scolastica dicesse sul serio e rideva in quel suo modo particolare alle sfuriate della cognata, alle esclamazioni del povero signor Pomino che si trovava lì presente a quelle discussioni e al quale la zitellona scaraventava le lodi più sperticate. Immagino quante volte egli avrà esclamato, dimenandosi sulla seggiola come su un arnese di tortura, «Oh, santo nome di Dio benedetto!» Omino lindo, aggiustato, dagli occhietti ceruli mansueti. Credo che si incipriasse e avesse anche la debolezza di passarsi un po' di rossetto, appena appena, un velo, sulle guance. Certo si compiaceva d'aver conservato fino alla sua età i capelli che si pettinava con grandissima cura a farfalla e si rassettava continuamente con le mani. Io non so come sarebbero andati gli affari nostri se mia madre, non certo per sé ma in considerazione dell'avvenire dei suoi figlioli, avesse seguito il consiglio di zia Scolastica e sposato il signor Pomino. È forti dubbio però che peggio di come andarono, affidati al Malagna, la talpa, non sarebbero potuti andare. Quando Berto e io fummo cresciuti, gran parte degli averi nostri, è vero, era andata in fumo, ma avremmo potuto almeno salvare dalle grinfie di quel ladro il resto che, se non più agiatamente, ci avrebbe certo permesso di vivere senza bisogni. Fummo due scioperati. Non ci volemmo dar pensiero di nulla. Seguitando da grandi a vivere come nostra madre da piccoli ci aveva abituati. Non aveva voluto nemmeno mandarci a scuola. Un tal Pinzone fu il nostro aio e precettore. Il suo vero nome era Francesco o Giovanni, del Cinque, ma tutti lo chiamavano Pinzone ed egli si era già tanto abituato che si chiamava Pinzone da sé. Era d'una magrezza che incuteva ribrezzo, altissimo di statura, e più alto, Dio mio, sarebbe stato se il busto tutto a un tratto non gli si fosse curvato sotto la nuca in una discreta gobbetta da cui il collo pareva uscisse pennosamente come quello d'un pollo spennato, con un grosso nottolino protuberante che gli andava su e giù. Pinzone si sforzava spesso di tener fra i denti le labbra come per mordere, castigare e nascondere un risolino tagliente che gli era proprio. Ma lo sforzo in parte era vano perché questo risolino, non potendo per le labbra così imprigionate, gli scappava per gli occhi più acuto e beffardo che mai. Molte cose con quegli occhietti egli doveva vedere nella nostra casa che né la mamma né noi vedevamo. Non parlava, forse perché non stimava dover suo parlare, o perché, come io ritengo più probabile, ne godeva in segreto velenosamente. Noi facevamo di lui tutto quello che volevamo. Egli ci lasciava fare, ma poi, come se volesse stare in pace con la propria coscienza, quando meno ce lo saremmo aspettato, ci tradiva. Un giorno, per esempio, la mamma gli ordinò di condurci in chiesa. Era prossima la Pasqua e dovevamo confessarci. Dopo la confessione, una breve visitina alla moglie inferma del Malagna e subito a casa. Figurarsi che divertimento. Ma appena in strada, noi due proponemmo a Pinzone una scappatella. Gli avremmo pagato un buon litro di vino purché lui, invece che in chiesa e dal Malagna, ci avesse lasciato andare alla stia in cerca di nidi. Pinzone accettò felicissimo, stropicciandosi le mani, con gli occhi sfavillanti. Bevve. Andammo nel podere, fece il matto con noi per circa 3 ore, aiutandoci ad arrampicarci sugli alberi, arrampicandocisi egli stesso, ma alla sera, di ritorno a casa, appena la mamma gli domandò se avevamo fatto la nostra confessione e la visita al Malagna, «Ecco, le dirò», rispose con la faccia più tosta del mondo, e le narrò per filo e per segno quanto avevamo fatto. Non giovavano a nulla le vendette che di questi suoi tradimenti noi ci prendevamo. Eppure ricordo che non erano da burla. Una sera, per esempio, io e Berto, sapendo che egli soleva dormire seduto sulla cassapanca nella saletta d'ingresso in attesa della cena, saltammo furtivamente dal letto in cui ci avevano messo per castigo prima dell'ora solita. Riuscimmo a scovare una canna di stagno lunga 2 palmi, la riempimmo d'acqua saponata nella vaschetta del bucato e così armati andammo cautamente a lui. Gli accostammo la canna alle nari e zif! Lo vedemmo balzare fin sotto al soffitto. Quanto con un siffatto precettore dovessimo profittare nello studio non sarà difficile immaginare. La colpa però non era tutta di Pinzone, che egli, anzi, pur di farci imparare qualche cosa, non badava a metodo né a disciplina e ricorreva a 1000 espedienti per fermare in qualche modo la nostra attenzione. Spesso con me, che ero di natura molto più impressionabile, ci riusciva, ma egli aveva una erudizione tutta sua particolare, curiosa e bislacca. Era, per esempio, dottissimo in bisticci. Conosceva la poesia fidenziana e la maccaronica, la burchiellesca e la leporeambica, e citava versi correlativi e incatenati e retrogradi di tutti i poeti per digiorno, e non poche rime balzane componeva egli stesso. Ricordo a San Rocchino, un giorno, si fece ripetere, alla collina di rimpetto, non so più quante volte questa sua eco. In cuor di donna quanto dura amore, ora, ed ella non mi amò quant'io l'amai, mai. Or chi sei tu che si ti lagni meco, eco? E ci dava a sciogliere tutti gli enimmi in ottava rima di Giulio Cesare Croce, e quelli in sonetti del Moneti, e gli altri pure in sonetti d'un altro scioperatissimo che aveva avuto il coraggio di nascondersi sotto il nome di Caton Luticense. Li aveva trascritti con inchiostro tabaccoso in un vecchio cartolare dalle pagine ingiallite. Udite, udite quest'altro dello Stigliani. Bello. Che sarà? Udite. A un tempo stesso io mi son una e due, e fo due ciò che era una primamente. Una mi adopra con le cinque sue, contra infiniti che in capo ha la gente. Tutta son bocca dalla cinta in sue, e più mordo sdentata che con dente. Ho due bellicchi a contraposti siti, gli occhi onne piedi e spesso agli occhi i diti. Mi pare di vederlo ancora nell'atto di recitare, spirante delizia da tutto il volto, con gli occhi semichiusi, facendo con le dita il chiocciolino. Mia madre era convinta che al bisogno nostro potesse bastare ciò che Pinzone ci insegnava, e credeva forse anche, nel sentirci recitare gli enimmi del Croce e dello Stigliani, che ne avessimo già di avanzo. Non così, zia scolastica, la quale, non riuscendo ad appioppare a mia madre il suo prediletto pomino, s'era messa a perseguitare Berto e me. Ma noi, forti della protezione della mamma, non le davamo retta, e lei si stizziva così fieramente che, se avesse potuto senza farsi vedere o sentire, ci avrebbe certo picchiato fino a levarci la pelle. Ricordo che una volta, scappando via al solito sulle furie, si imbatté in me per una delle stanze abbandonate, m'afferrò per il mento, me lo strinse forte forte con le dita, dicendomi «Bellino, bellino, bellino!» e accostandomi man mano che diceva sempre più il volto al volto, con gli occhi negli occhi, finché poi emise una specie di grugnito e mi lasciò, ruggendo tra i denti, «Muso di cane!» Ce l'aveva specialmente con me, che pure attendevo agli strampalati insegnamenti di Pinzone senza confronto più di Berto. Ma doveva essere la mia faccia placida e stizzosa e quei grossi occhiali rotondi che mi avevano imposto per raddrizzarmi un occhio, il quale, non so perché, tendeva a guardare per conto suo altrove. Erano per me quegli occhiali un vero martirio. A un certo punto li buttai via e lasciai libero l'occhio di guardare dove gli piacesse meglio. Tanto, se dritto, quell'occhio non m'avrebbe fatto bello. Ero pieno di salute e mi bastava. A 18 anni mi invase la faccia un barbone rossastro e ricciuto, a scapito del naso, piuttosto piccolo, che si trovò come sperduto tra esso e la fronte spaziosa e grave. Forse, se fosse in facoltà dell'uomo la scelta di un naso adatto alla propria faccia, o se noi, vedendo un pover'uomo oppresso da un naso troppo grosso per il suo viso smunto, potessimo dirgli «Questo naso sta bene a me e me lo piglio», forse, dico io, avrei cambiato il mio volentieri, e così anche gli occhi e tante altre parti della mia persona, ma sapendo bene che non si può, rassegnato alle mie fattezze, non me ne curavo più di tanto. Berto, al contrario, bello di volto e di corpo, almeno paragonato con me, non sapeva staccarsi dallo specchio e si lasciava e si accarezzava e sprecava denari senza fine per le cravatte più nuove, per i profumi più squisiti e per la biancheria e il vestiario. Per fargli dispetto, un giorno io presi dal suo guardaroba una marsina nuova, fiammante, un panciotto elegantissimo di velluto nero, il gibus, e me ne andai a caccia così parato. Omero Antonutti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.